cammino, dici c'è D'Agostino. Chiudi gli occhi e attento al gradino. Il programmino di Gigi D'Agostino. Chiudi gli occhi e attento al gradino.

Tenete a posto le mani, ci sentiamo domani.